bisogna essere un po' tenaci, percorrere dei percorsi un po' diversi, ecco. Certamente, e cercare. Infatti. Poi una cosa importantissima, nel 1998 ha inventato il sito Il Popolo del Blues, che poi è diventato anche un'etichetta fondamentale. Sì, la storia del Popolo del Blues nasce nel 1995, più esattamente. 1995 è l'anno in cui io praticamente termino Rai Stereo Notte, nel momento in cui il mio capo Pierluigi Tabasso va in prepensionamento. È una storia che abbiamo raccontato questa poche settimane fa in una mattinata celebrazione, mattinata università, all'Università della Sapienza a Roma. Quando Pierluigi Tabasso se ne va, io chiudo la mia avventura con Rai Stereo Notte, torno a Firenze e un caro amico musicologo è appassionato di blues, mi dice: dobbiamo fare qualche cosa per il blues. Allora nasce Il Popolo del Blues sulle frequenze di Controradio Firenze prima, e poi sulle frequenze nazionali di Popolare Network, dove va in onda per tutta l'Italia la domenica sera. Nel 1998 nasce il sito, che diventerà poi nel 2000 una testata giornalistica, una vera e propria testata giornalistica, fino a che nel 2000 appunto nasce anche l'attività discografica. Insomma, naturalmente era abbastanza semplice, in quanto io musicista, che in qualche modo, no? Insomma, facesse anche poi, decisamente. Poi hai curato un sacco di cose interessanti, tra l'altro recentemente, quindi la scorsa settimana, abbiamo intervistato il ritorno con il leader della raccomandata con ricicuta di ritorno. Ci sei dentro anche in questo? Sì, perché Il Popolo del Blues è una società che si occupa di promozione, si occupa di uffici stampa, si occupa di marketing, e Luciano Regoli, fondatore della raccomandata con ricevuta di ritorno, dei Samadi, fondatore dello storico cult band romana che si chiamavano Ritratto di Dorian Gray, si è rivolto a noi per la promozione del loro album. Una promozione, devo dire, fra l'altro sta andando molto bene, perché questo è un disco molto bello, con dei grandissimi musicisti. C'è dentro Walter Martino alla batteria, c'è Simonetti alle tastiere dei Goblin, Carl Verheyen dei Supertramp, insomma ci sono delle gente straordinaria. E soprattutto, essendo Regoli stato lontano dalla musica per così tanti anni, in qualche modo diciamo che non ha occupato in maniera rumorosa spazio che invece gli è stato restituito con i seguaci. Esattamente, e non ha perso assolutamente nulla, perché il disco è molto bello, molta grinta, molta voglia di fare, molta voglia di suonare soprattutto. Sì, lui è uno straordinario cantante, devo dire, è una persona molto molto molto simpatica anche, devo dire che è un artista che in qualità di pittore, perché questo sì, è il suo primo, certo, il suo primo impegno, in qualità di pittore ha fatto una carriera assolutamente fantastica, fuori da qualsiasi schema, e quindi ritrovarlo nel mondo della musica è abbastanza curioso, un po' per tutti. Infatti c'è una grande curiosità intorno a questo disco, così come c'è curiosità intorno al genere progressive in generale. Negli ultimi anni io ho appena curato le note di copertina di tutte le ristampe dei dischi Manticore in Inghilterra, della PFM, insomma lo sto vedendo, mi accorgo c'è un grande ritorno, incredibile. E, oltre a tutte queste cose, hai curato un doppio CD che è uscito da poco, anche in Italia, che è il secondo capitolo di un disco che era uscito precedentemente, che adesso è... siamo partiti insieme a Bobby Solo, l'ex cantante dei Blindos Bar, una persona con un amore per la musica e una competenza nel genere funk molto forte, dall'idea di cercare un pochino di creare una nuova geografia della musica funk. Una mappatura, hai detto, una mappatura del funk contemporaneo italiano. Sì, perché questo è un lavoro che io avevo già fatto con il blues, scusatemi. Avevo già fatto con il blues negli anni 90, fra il 1995 e il 1999. E credo che ogni tanto sia importante fare questo tipo di mappature, perché comunque si rimettono le cose un po' in pari. Perché quando ci sono tanti gruppi, quando ci sono tante attività, non c'è più, diciamo, la musica fermata tramite le grandi industrie, tramite le grandi major, bisogna ogni tanto fare un ponte a capo, no? Certo, certo. E fa un pochettino di capire, cioè, spesso e volentieri si ha anche l'idea che tutto continui a vivere all'infinito, mentre invece non ci si rende conto che nel giro di poco tempo ci sono state delle variazioni incredibili. Questo lo impari soprattutto all'estero, non so, nelle grandi città, a New York. New York è abbastanza evidente, da sei mesi a sei mesi cambia completamente la scena. Quindi per il funk italiano abbiamo deciso di intraprendere questa ricerca e, appunto, come ho scritto nelle note, questa mappatura. Lo abbiamo fatto facendo un salto nel passato, ritirando fuori dei nomi storici. Hai diviso il CD in due parti, una prima parte dedicata alla musica degli anni 70, una seconda parte la musica di adesso. Qualcuno ha scritto giustamente: ma come mai, dove hai trovato il funk in un pezzo come Diesel di Finardi o un pezzo degli Area Almena di Odessa? Allora, come ho scritto nelle note di copertina, il funk negli anni 70 non era una finalità, il funk era un mezzo, cioè il linguaggio del funk veniva usato per la canzone, per la finalità della canzone. Naturalmente basta prendere lo spartito e vedere le divisioni e vedere com'è il bounce delle pause e dove cade il ritmo per cogliere il senso del funk. In Finardi c'è questo gioco abbastanza soft di questo funk jazz che mi andava molto di moda a Milano nei primi anni 70, con le batterie suonate sul Charleston e rullante, di cui appunto Walter Calloni era comunque uno dei maestri, maestro assoluto. Marchesis. Considerate, ecco, che adesso vi dico una curiosità, se la cosa vi fa piacere: quel piano Fender, sì, quel piano Fender, il piano Fender di Diesel, sì, è qui davanti ai miei occhi in casa mia a Firenze. Bellissimo. Io ne sono il possessore. Bellissimo. Ce l'ho io, è qui in casa e non uscirà di casa. L'ultima volta che l'ho dato a suonare a qualcuno in uno studio, sì, per una seduta, per una session, mi è stato riportato con una corda rotta. Aia. E con un biglietto di scuse firmato Brian Eno. Però non mi è stata restituita la corda rotta. La corda rotta ce l'ho, però questo è un altro discorso. Per cui da quel giorno il piano rimane là, non si tocca. Il diesel rimane a casa a Firenze. Ernesto, scegliamo un pezzo dalla prima antologia, dal primo disco, a tuo piacimento. Cosa vuoi mettere su? Guarda, una canzone, perché il funk in Italia funziona molto quando ci sono le canzoni. Sì. Uno dei brani, secondo me, più significativi è Nel ghetto di Alberto Radius. Perfetto. Scritto, voglio sottolinearlo, da una grande coppia che accompagnava in quel periodo la scrittura di Alberto Radius, che era Avogadro e Pace, Daniele Pace, lo ricordo, che è un nome così dimenticato perché se n'è andato tanti anni fa, e che era un burlone perché era anche uno degli Squallor, quindi sapeva giocare con la musica. Ma Nel ghetto c'è veramente tutto il senso del funk italiano. cervello del fair play mi vorrebbe come lei. Io non ho futuro, ma non voglio stare male, che si arrangi chi ha paura del caviale. il marchio Cramps è passato di mano in mano, per cui adesso la questione sta un pochettino ricominciando. Ho capito. Parlando del secondo CD, tu hai scritto è per lo più costituito da musica più pubblico. Questa è la definizione che hai dato. Sì, dei questo è quello che penso. Esatto, quello che penso. Questo è quello che penso in generale della musica. Del funk adesso. No, non solo del funk, di un po' tutta la musica. Oramai la musica non è più fatta da fan, da persone che comprano i dischi, seguono i dischi. Il pubblico della musica oramai sono gli addetti ai lavori, che sono sempre di più. Oramai migliaia e migliaia e migliaia, così come sono migliaia e migliaia gli studenti che si iscrivono all'università per studiare giornalismo, al punto che ci saranno più giornalisti che giornali, sì. Quando la carta stampata non ci sarà più, così come ci sono stati più avvocati per un periodo dell'Italia. No? Giustissimo. E questa è un po' la situazione, quello che io vedo. Quindi vedo, non è positiva da quel punto di vista, tante scuole di musica, tanto insegnamento della musica, tanto interesse per la musica, tante cose belle. Però una volta, insomma, si compravano i dischi, c'era il seguace, il fan, no? Adesso non è più così. Ora tu magari puoi obiettare e dirmi, ma a vedere Vasco Rossi ci vanno 60.000. Sì, però quei 60.000 vanno a Vasco Rossi come andrebbero da un'altra parte, perché comunque sì, appartengono a una categoria del pubblico che si chiama pubblico passivo. Cioè sono il pubblico che indistintamente può partecipare a qualsiasi evento di qualsiasi tipo. L'importante è che sia un evento di massa. L'importante è che sia un evento di cui i cui partecipanti siano moltissimi, per cui a un certo punto tu hai la sensazione, come dire, che se non ci sei non fai parte della massa, visto che comunque sia fare parte della massa vuol dire in fin dei conti essere rassicurati. Ecco, diciamo che sono ben diverse le cose, capito? E comunque me ne accorgo tutti i giorni, tutti i momenti, quando mi trovo a dover ascoltare tanto materiale, quello che ti arriva praticamente. Mi accorgo che non c'è proprio fiducia nella musica, non c'è proprio fiducia. C'è poca sensibilità, poca voglia di fare. No, neanche poca voglia di fare. No, non c'è fiducia oramai. La musica non è più ciò che era una volta. La musica una volta, in fin dei conti, era... serviva per raggiungere uno stato di gioia, di felicità, di stare bene. Adesso, lo dico tante volte, è un mezzo. Cioè, la musica ti viene data falsamente, gratuitamente, con i telefonini. Allora ti vendono un telefonino con dei brani gratis, però poi se ne vuoi degli altri, quegli altri sono a pagamento. È un mezzo come qualsiasi altra cosa, ecco, mentre la finalità era altra, era anche una ricerca. E c'era ancora chi fa la ricerca ancora adesso? Sì, la ricerca la facciamo noi, in questo momento noi siamo a dibattere intorno alle cose della musica, probabilmente perché stiamo cercando una reason why, stiamo cercando una soluzione che non troveremo, e stiamo cercando di dire al mondo che la musica, se non ci salverà come si sperava che il rock and roll ci salvasse, ci potrà aiutare a stare meglio. Un minuto dopo, io in questo momento sto guardando Sanremo e la sensazione è quella di spengere. Per cui... Anche Fabrizio sta guardando Sanremo. Esatto, sono qua a abbiamo la televisione qui in studio e mentre parliamo scrutiamo. È un po' una forma di masochismo che ci portiamo appresso da 60 anni. Quindi, non cambia mai. In qualche modo è, come posso dire, è una delle boe. È una delle boe dell'Italia, no? Insieme al TG1, sono pochi, insomma, sono sempre meno. Non è che noi si guarda Sanremo per vedere chi vince, noi si vede, vogliamo guardare Sanremo per vedere se succede qualche cataclisma. Sì. Non so, cavallo pazzo che si affaccia dalla balconata di Sanremo, Luigi Tenco che si ammazza, la morte di Claudio Villa che aspettava l'inizio del secondo tempo. Ve le posso dire tutte, di Sanremo ne ho fatti diversi, per cui sono un professionista anche in quell'ambito. Ho capito. È così, insomma. Ritornando al tuo, alla seconda antologia, al secondo disco, cosa vuoi scegliere come esplicativo di questa seconda? Guarda, visto che prima abbiamo parlato di Radius, sicuramente il grande Beppe Crovella, tastierista degli Arti e Mestieri, con la sua versione del Tempo di Morire all'organo Hammond, che mi sembra molto, molto interessante, molto molto molto stilosa. Ok, la sentiamo. Thank you. grande sound, non c'è che dire, Maurizio? Decisamente un grande sound. Ernesto, ci sei? Eccomi qui, sono qui per voi. Ottimo. Decisamente un grande sound, un pezzo decisamente molto importante, molto significativo, molto, con molto pathos, con molta grinta. Qui c'è la voglia di suonare, Ernesto, non, c'è, non ci sono giri diversi. Sì, non ci sono dubbi, però non è un caso che poi, insomma, Beppe Crovella sia un cinquantenne, forse un po' più che cinquantenne, che comunque sia, appunto, appartiene a una generazione cresciuta su dei principi, oserei dire, molto sani. Ecco, c'è poco da fare. A me dispiace dirlo per i ragazzi più giovani che possono vedere gli adulti, insomma, io ho 52 anni, per cui mi devo, gioco forza, considerare tale, anche se non ne sono così convinto, ma comunque devono capire, i giovani devono capire che la mia generazione è la migliore. A me mi dispiace per loro, è un po' così. Fabrizio, cosa dice? C'è niente da fare. Oh, così è. Cioè, io ho solamente partecipato alla grande festa della c'era un detto, vedo se me lo ricordo, l'etichetta immediate era l'etichetta di Andrew Lou Goldman, esatto, dei Rolling Stones, esatto, che diceva, il motto dell'etichetta era qualche cosa tipo felice di far parte dell'industria.